Gli anni 60 e gli anni 80 del secolo scorso, a tenere banco nelle pagine di cronaca nera dei quotidiani, furono ancora una volta crimini legati in qualche modo all'ambiente accademico. Quanto avvenne in una notte di primavera del 1963 rimarrà impresso a lungo nelle coscienze dei cittadini bolognesi, dividendo di nuovo la stampa tra innocentisti e colpevolisti, proprio come era avvenuto con il caso Murri e il caso Coltelli. È la notte del 14 marzo. Carlo Nigrisoli sta percorrendo il corridoio che conduce all'ambulatorio più vicino della clinica di proprietà della famiglia, tenendo in braccio la moglie Ombretta, agonizzante. La morte sopraggiunge inevitabile poco dopo. Arrivato sul posto, Paolo Nigrisoli, fratello di Carlo e medico anch'egli, si rifiuta di stilare un certificato di morte per cause naturali. Secondo lui, Ombretta è stata avvelenata. È a questo punto che la faccenda si complica. Pietro Nigrisoli, proprietario della clinica e padre di Carlo, non esita ad accusare il figlio dell'omicidio della moglie. Avverte personalmente il magistrato, che ordina immediatamente una perquisizione dell'appartamento dei due coniugi. E sul comodino vicino al letto di Ombretta, gli inquirenti trovano una siringa e un flaconcino di sincurarina, un anestetico a base di curaro. Carlo Nigrisoli viene arrestato e già nel febbraio del 1965 viene condannato in via definitiva all'ergastolo. Ma è davvero colpevole? Sui giornali si affermano due teorie principali per spiegare l'accaduto. La prima prevedeva che Carlo, da anni insoddisfatto della vita coniugale e di una carriera all'ombra del padre e del fratello, avesse premeditato di uccidere la moglie per poi unirsi a una delle amanti. La scelta del curaro era perfetta perché non lascia traccia nei tessuti, simulando un malore. Ma è un assassino tanto maldestro da lasciare in bella vista le prove della sua colpevolezza. La seconda teoria sosteneva che Ombretta, ragazza di modeste origini sposata a un membro dell'alta borghesia che però aveva deluso le sue aspettative, depressa e conscia dei ripetuti tradimenti da parte del marito, avesse deciso di farla finita tramite un composto di facile reperibilità nella clinica del suocero. Tra i fatti, alcuni giorni prima i due coniugi si erano recati da uno psicologo. Considerando i tempi e la provincialità dell'ambiente bolognese, significa che il matrimonio tra i due era alle corde. A supporto di questa teoria, un'amica di Ombretta dichiarò che il giorno prima della morte la donna si sarebbe congedata dicendo «Chissà mai se ci rivedremo». Comunque sia andata, quel che è certo è che per tutta la durata della sua detenzione, Carlo Nigrisoli non ha mai smesso di proclamarsi innocente. L'ambiente accademico torna prepotentemente agli onori della cronaca 20 anni dopo, nel 1983. Emblematico un titolo del quotidiano Il Resto del Carlino, datato 6 dicembre. Non esiste il giallo del Dams. Ma di giallo si parlava e come, e con una certa insistenza. Il motivo? Una catena di delitti collegati al corso di studi fondato nel 1970 da Umberto Eco. Tutto inizia alla notte di Capodanno del 1982, quando in Val di Zena, dalle parti di Farneto, viene ritrovato il corpo di uno studente del Dams, Angelo Fabbri, ucciso con numerosi colpi di arma da taglio, forse un macete. Passano solo 6 mesi e si scopre il corpo senza vita di Francesca Alinovi, assistente universitaria di ruolo al Dams, assassinata nella sua abitazione di Via del Riccio. Questa volta si parla di 47 piccole pugnalate, con i sospetti che cadono sul convivente. Un mese di tregua e un terzo caso fa sembrare che una vera e propria maledizione sia calata sull'Ateneo bolognese. Si tratta dell'omicidio di Liviana Rossi, studentessa sempre del Dams, uccisa in Calabria mentre lavorava come stagionale in un albergo del Crotonese. Poi, la sera del 29 novembre, un'altra vittima, Leonarda Polvani, ex studentessa della solita facoltà, residente a Casalecchio di Reno, il cui cadavere viene rinvenuto da un guardiacaccia all'interno della grotta di Croara. «Sembra di assistere a un serial televisivo», dichiarò uno studente durante un'intervista. «Noi non siamo impressionati, studiamo le tecniche della comunicazione e i titoli non ci fanno effetto. Ma in famiglia sono preoccupati e qualche nostro amico non ha potuto iscriversi quest'anno perché i familiari pensavano che il Dams fosse davvero un ambiente frequentato da assassini. I 4 casi, a eccezione del legame con il corso di laurea orientato alle discipline dell'arte, della musica e dello spettacolo, appaiono tutti scollegati tra loro». Per la loro efferatezza, tuttavia, hanno contribuito in un certo periodo a creare un clima di diffidenza, quando non una vera e propria psicosi, verso un corso universitario che alla sua fondazione era stato definito una facoltà all'avanguardia, ultramoderna e spregiudicata nella didattica, unica, in bilico tra trasgressione e scienza. 2 agosto. Per chi non è del